precio de quién me arruina en pedazos. Apenas un día perdido y vivo lejos de aquella fe. Es mejor no hablar de eso. Thank you. Thank you. Sunt vezi de mea locura e digo e unia vostra de chem maruna în pedazos deus e cansava de tia es un vezi partito o se ne passo de un dia no tempo no tempo. E fico Esto es muy difícil. Oh no. Onde estará a raia? A luz de Deus se escondeu. Oh, escondeu. Puf, madre. Você. Slave ogni façon diversa, mi sembrano cura. E dico, è ogni agosto che c'è, ma ruina un pedazzo di te. Che cansava di te, e ogni merito un beso partito. La A. Oggi è passato di un dia perdido nel tempo e fico lungo il soggetto di sé, ne so falsa ma ne so di sé, e sarà proprio se che non ho potuto sapere. Ogni anno passo di un basso quebrado nel petto e grido coda.